Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, finalmente abbiamo dato un premio anche noi di Möbius. Non l'avevamo mai dati, siamo contenti. Siamo stati a SMAU Bologna, abbiamo dato questo premio Möbius Startup. Ve ne parliamo subito, benvenuti e adesso i titoli. A SMAU Bologna 2012 è stato consegnato il premio Möbius Startup per i giovani imprenditori che hanno presentato il loro progetto con più entusiasmo. Il vincitore è... ve lo riveliamo tra un attimo. Ascoltare la natura. Un musicista di Detroit ha raccolto per 50 anni i paesaggi sonori di tutto il mondo. Come si fa a calcolare l'ammontare dell'evasione fiscale? Ce lo chiede Paolo, un nostro ascoltatore. Eccoci qui da Bologna, da SMAU, la fiera dell'informatica e delle nuove tecnologie. Stiamo per consegnare il premio Möbius Startup 2012. Si tratta di un riconoscimento conferito a giovani imprenditori, giovani start-upper che si sono distinti per entusiasmo e passione nel raccontare il proprio progetto, la propria idea. La votazione si è tenuta nell'ambito appunto di SMAU Bologna, nel contesto Research to Business, che era un'arena in cui i più qualificati centri di ricerca venivano messi in comunicazione con il mondo delle imprese. Hanno partecipato 70 startup e ai visitatori veniva chiesto di votare quelli che si presentavano con maggiore entusiasmo. E quindi stiamo per svelarvi i vincitori. Terzi classificati sono i ragazzi di Ecopolis, ai quali abbiamo chiesto appunto di presentarsi in due minuti nella maniera più entusiasmante possibile. Utilizzare le competenze che negli ultimi 10 anni si sono raggruppate attorno ad un master internazionale che si chiama Ecopolis. Quindi la nostra sfida è come trasformare l'idea che il master sta portando avanti in questi ultimi 10 anni in un'attività professionale. Noi lavoriamo dal punto di vista dell'innovazione e dell'integrazione dei saperi per la qualità della vita e soprattutto nel campo dello sviluppo locale. Molti nostri colleghi alla facoltà di economia dicono che lo sviluppo è sviluppo e non esiste sviluppo locale, e da questo punto di vista siamo molto criticati. In realtà sono 10 anni che lavoriamo in Sud America, soprattutto in Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, e nessuno ci ha mai fatto differenze tra sviluppo e sviluppo locale. Anzi, tutte le attività che noi portiamo avanti dal punto di vista dello sviluppo locale sono quelle che hanno poi negli anni avuto una ricaduta sul sociale con molta più importanza che i temi generali dello sviluppo. Noi lavoriamo per rafforzare i rapporti tra le associazioni del territorio, gli attori del territorio, e costruiamo degli strumenti che sono per noi durabili nel tempo, perché è quello che proietta nel tempo la qualità del progetto. Si aggiudicano il secondo posto i ragazzi di Comunichiamo, anche per loro presentazione. Comunichiamo è una piattaforma web che aiuta i comuni a gestire le segnalazioni e la risoluzione delle problematiche cittadine. Ma abbiamo aggiunto un piccolo ingrediente segreto che si chiama intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva cosa fa? Permette al sindaco o ai dirigenti comunali di capire quale sia la problematica più rilevante in città. Quindi se una buca è segnalata da tante persone è giusto aggiustarla in fretta. Se una buca invece è segnalata solo da una persona probabilmente può attendere un po'. Facciamo questo raccogliendo le segnalazioni da qualsiasi canale, quindi non ci dimentichiamo neanche degli anziani che vanno a sportello, scrivono la lettera, né dei giovani che utilizzano le app mobile di Comunichiamo o i siti internet. Quindi le raccogliamo tutte, processiamo in automatico e il sindaco riesce a gestire la città in maniera più efficace e probabilmente la popolazione sarà anche più felice della città dove abita e spenderà anche un po' meno per la gestione dei problemi della città. Se vi interessa andate su www.comuni-chiamo.com. Ci trovate anche su Twitter a @comuni_chiamo, mandateci feedback, diteci cosa non vi piace, cosa vi piace, tutto, leggiamo tutto, non abbiamo niente da fare dal mattino alla sera, quindi vi siamo vicini e stateci vicini. Il vincitore And the Oscar goes to... The winner is... I vincitori del primo premio Mebius Startup sono i ragazzi di Sgnam.it. Siamo i ragazzi di Sgnam.it, Sgnam con la S. Siamo un portale che permette alla clientela di ordinare direttamente a domicilio dai locali convenzionati in zona. Come funziona? Il cliente inserisce il proprio indirizzo e trova tutti i locali convenzionati che effettuano consegne a domicilio nel suo raggio d'azione, e quindi può essere a caso, in ufficio o quant'altro. Appunto, dopo aver inserito l'indirizzo, troviamo i locali e passiamo al menu. Quali sono a livello di innovazione di servizio? Daremo ad ogni ristoratore un tablet con un applicativo creato ad hoc che permetterà di avere un feedback istantaneo e una comunicazione diretta tra clientela e ristoratore. Quindi diciamo che il ristoratore, accettando l'ordine, può dare immediatamente un feedback in termini di tempi di consegna alla clientela. Questo servizio può essere comunque implementabile tanto da arrivare al momento in cui noi riferiamo alla clientela quando la pizza viene messa in forno, quando la pasta è stata tolta dalla padella, eccetera eccetera. Faremo molto uso di social network, infatti si potrà fare accesso con Facebook, Twitter, LinkedIn e Gmail, per esagerare. Il sito sarà in italiano, inglese e cinese per dare una visione globale del tutto, come anche allo stesso modo dei ristoranti che avremo. Daremo molta importanza anche a quelle nicchie di clientela che sono i celiaci o i vegetariani, i vegani o addirittura halal, per cui la carne dei musulmani. Il cliente potrà comunque modificare gli ingredienti in sede di ordinazione, quindi aggiungere un supplemento o togliere i pomodorini della saracena. Il sito, come ben detto, è sgnam.it, è molto user friendly, il nostro colore sociale, come molti di voi hanno visto, è l'arancione. Grazie a tutti. C'è traffico, non c'è traffico, ma comunque ce lo dicono adesso. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A voi, come sempre, a questo punto rispondere al nostro quiz. Come noto, andando indietro nel tempo, anche la nostra specie, come tutti gli altri animali, viveva nuda. Ma è possibile determinare quando abbiamo iniziato a metterci addosso qualcosa? Non è cosa banale, ma una risposta plausibile c'è e dipende da un particolare fattore. Quale? Vi dico il primo. I pidocchi. Ci scriverete pidocchi. Il secondo. Il colore della pelle. Ci scriverete pelle. 3. La dimensione dei pori. Ci scriverete pori. Uno di questi tre fattori è stato determinante per riuscire a trovare questa risposta. Il libro che si vince questa settimana è L'evasione fiscale, quanto, come e perché, di Alessandro Santoro, edizione Il Mulino. E con Alessandro Santoro stiamo per parlare. Chiara Alberto da Bologna, eccoci qua. Piombiamo qua alla sede del Sole 24 Ore. Vi devo far ascoltare suoni. Ah. Questa puntata c'ha molte domande. Vabbè, prestiamo orecchio. Prestate orecchio. Sentiamo. Allora, Bernie Krause è un bioacustico californiano. Sono tanti anni che raccoglie suoni. Bioacustico vuol dire che raccoglie suoni dalla natura, tipicamente animali. Ma però, non solo. Ma non solo. Okay. Lui in realtà ha iniziato come musicista e compositore, poi si è appassionato di natura e dei suoi suoni, perché c'è un paesaggio visivo e quindi quello lì è sotto i nostri occhi. Ma il paesaggio sonoro non è sotto i nostri occhi, no? Il famoso soundscape. Esatto. E neanche di fianco alle nostre orecchie, direi. No, perché tu vedi un bosco, certo, senti cinguettico, tipicamente quelle robe lì, però è molto poco, E poi, attenzione, bisogna anche trovarsi nel posto giusto al momento giusto. E questo come e quella è un po' una quota di fortuna. E tu che sei un po' etologa, no? Assolutamente. Naturalista, cos'è uno che ha una pazienza infinita. Assolutamente. Ore e ore di osservazione e di ricerca. Esatto, perché deve aspettare che arrivi qualcosa di raro. E poi deve avere anche strumenti molto sofisticati. Adesso ci sono, no? Che raccolgono suoni impercettibili. Per esempio, le formiche rosse che percuotono l'addome con le zampe posteriori. Tipo Urango. Esatto. Okay. Perché? Perché lui ha messo il microfono vicino alla tana. Al formicaio. Le formiche vedono questa roba come un oggetto estraneo. Una minaccia. E allora sentiamo. Vedi? E rispondono così. Si percuotono. Si percuotono l'addome. per chiamare le altre. I rinforzi. I rinforzi. Come si chiamano? Io le chiedo con le colleghe. Le compagne, sì. Questo suono qui tu non lo senti in natura. Certo, no. Però c'è. E poi probabilmente perché è in sotterraneo, nel formicaio. Vogliamo sentirne un altro? Sì. Vediamo se lo azzeccate. Proviamo. Prima udito sembrerebbe un maialino. Piccolo, piccolo. Però c'è anche un rumore di acqua. Un maialino allora, che beve? No, un ippopotamo. Un ippopotamo, un piccolo ippopotamo. Sì. Un piccolo ippopotamo. Allora, c'è un gamberetto, pensa tu, che ha una chela grossa rispetto al corpo. È grande quasi quanto il corpo. Quando si avvicina la preda, che è un pesciolino piccolo piccolo, lui ha già preparato con questa chela una bolla d'acqua. Avvolge e poi avvolge la preda. Poi plop! Gli fa scoppiare la bolla, questo resta completamente intontito. E lo pappa. Sì, anzi, i militari, non so se si sono ispirati a questi, sono queste bombe a suono, no? Che lo cattura col suono proprio. Praticamente lo rende, perde lo completamente l'equilibrio e lui se lo pappa. Interessante. Però capisci che è un gamberetto che è grande un centimetro, lui va a prendere... Una specie di krill, sì. Possiamo dire. Devo raccontare una cosa molto triste. No. Siete... Anche ascoltatore, scusate, ve lo devo dire. È una roba molto triste. Qui no. Bisogna trovarsi al momento giusto. Allora, una diga fatta da castori viene distrutta da un gruppo di forestali del Servizio Nazionale Americano. Addetto alla conservazione dei parchi. No? Evidentemente ci sono delle ragioni valide, probabilmente... Deviava il corso del fiume. Costruiva esattamente il corso di un corrente. Alla sera cosa fa Bernie Krause? Ecco, si mette lì intorno e registra le voci di un castoro maschio disperato che non era in tana, ma che ha perso la sua famiglia. È tristissimo. È straziante. Piange. Cioè è arrivato lì e non ha trovato più niente. No. Ora, lui dice, io ho registrato tanti castori, ma mai... Ho sentito uno straziamento del genere. E in effetti l'evento era eccezionale. L'evento è eccezionale. Quindi certe voci vengono fuori solo se succede qualcosa. Un evento. Allora, sentite questo suono che arriva adesso? Questo è uno xilofono. Un musicista. Discoteca questo. Allora, nasce così. Lui voleva registrare voci di pipistrelli. Ha scelto come luogo un prato con alcuni alberi di Hibiscus tiliaceus. Alberi intorno ai quali ci sono sempre molti insetti, quindi pipistrelli vengono qua. E poi probabilmente pipistrelli non notturni, perché ce ne sono, ad esempio, in Sudafrica. Sì. Ecco. Succede questa cosa stranissima. Lui ha infilato il registratore in un piccolo foro dell'albero con il microfono che spuntava e ha registrato. Quando è tornato in laboratorio con le sue apparecchiature sofisticate, ha scoperto che c'era anche un altro suono, una traccia debole, che ha isolato e amplificato. È un picchio. Ah, va, pensa tu, non è ancora chiaro esattamente di che cosa si tratta. Lui sta lavorando anche con questi super esperti della Purdue University. La prima ipotesi è che si possa trattare di cellule dell'albero che succhiano l'acqua. Lui l'ha amplificato tantissimo questo suono. La linfa vitale dell'albero, esatto. Che scorre nelle vene dell'albero. Sì. Straordinario. Certo che puoi anche trovarti in situazioni tutt'altro che agevoli, no? Qui lui racconta com'è andata quando sui monti Algonquin si è trovato circondato da lupi. Yeah, I went out one morning and all of a sudden I was surrounded by these wolves. Un branco di lupi davanti. The guy that was with me was terrified. I was terrified. Around a tree and set up two mics on it. Li aveva davanti e dietro. Began to record. Circondato. And I had a pack of wolves in front of me and a pack of wolves in back of me. Davanti, dietro. And I was completely surrounded with these two groups just yowling at one another in the dawn light. E cosa ha fatto? Ha registrato. Lui ha registrato. La scelta migliore. Pensa tu che roba, però. Quando mai ti ricapita, scusami. Però adesso può testimoniare. La cosa più strana, lui sta registrando queste cose, Klaus ha 73-74 anni, sta registrando da circa 50 anni e lui dice che ormai quasi metà del suo archivio è fatto di suoni in natura in posti dove questi suoni non ci sono non più. Non ci sono più, ecco. Se ne stanno andando. Quindi è come fotografare. E quindi questo è anche suoni, un bel modo per sensibilizzare la conservazione, no? Sì, sì. E per avere dati su cose che se non ci sono più, effettivamente, è come le fotografie di ghiacciai che c'erano una volta. Ma questi suoni si possono ascoltare da qualche parte? Sì, guarda, la cosa migliore è andare in rete e digitare il suo nome, Bernie Kraus, Bernie Krause con la K, e trovate un po' di cose, un po' di siti, ci sono anche delle robe su YouTube dove lui racconta le sue esperienze con i suoni che le accompagnano. E magari qualcosa trovate anche sul nostro sito, provate a cercare. Certo. moebiusonline.eu. Una pausa e poi l'evasione fiscale. La domanda del nostro ascoltatore Paolo. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Domanda di valore storico. Sì, storico, culturale, sociale, economico. Sociale. Scientifica o no? Sì, sì, in un certo senso. Sì. Anche molto matematica, forse. E anche molto matematica. E forse tutti ce la siamo fatta una volta nella vita. E ce la stiamo facendo. E ce la stiamo facendo soprattutto in questo periodo, soprattutto per chi non si occupa, insomma, di economia e di finanza. Però in questo caso la facciamo fare a Paolo, che ce l'ha fatta direttamente. Sì, al nostro ascoltatore da Modena. Come fanno a calcolare l'evasione fiscale? Diciamo che se sai l'importo dovresti sapere anche chi evade, però non lo sai. Quindi come fanno a sapere però l'importo totale? Sicuramente c'entra la statistica in queste cose, però quali sono i parametri che considerano e come li trattano? Molte grazie. Questa è una domanda veramente che ci siamo posti tutti. Sì. E quindi abbiamo dovuto cercare, insomma, abbiamo dovuto cercare l'esperto che potesse raccontarcelo, un esperto che ne sa perché ha scritto anche un libro. E l'abbiamo appena dato in premio per il quiz. Eh sì, e l'esperto è Alessandro Santoro, appunto autore del libro, che è professore associato di Scienza delle Finanze alla Bicocca di Milano e che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Santoro. Cosa rispondiamo a Paolo e a tutti gli italiani? Iniziamo. Beh, direi che è una domanda che richiede una risposta abbastanza articolata. Esistono due stime che sono pubbliche e che sono note, alle quali può riferirsi l'ascoltatore, dell'evasione fiscale in senso lato. In realtà una è proprio dell'evasione fiscale, un'altra invece, che peraltro è forse la più conosciuta, si riferisce al sommerso economico. Cominciamo da questa seconda. La stima del sommerso economico, cioè della ricchezza che complessivamente non viene dichiarata alle autorità fiscali o ai fini contributivi, è fatta dall'Istat ed è resa pubblica con cadenza biennale. Fra poco l'Istat renderà noti i dati aggiornati al 2010, quindi c'è una distanza temporale di 2 anni. Questa è una stima che l'Istat fa, come tutti gli istituti statistici europei da ormai più di 15 anni, perché nel PIL di tutti i paesi europei deve essere incluso appunto il valore complessivo della ricchezza non dichiarata. Ma l'Istat come fa a calcolarlo? Che parametri utilizza? Fondamentalmente l'idea è sempre quella di confrontare diverse basi dati, in particolare basi dati che si ritengono credibili, cioè non inquinate dall'evasione, con basi dati che invece riflettono l'evasione, e di ottenere la stima dell'evasione come differenza tra le due. Vediamo in modo più articolato come succede. Allora, l'Istat stima il valore economico del sommerso come somma di 3 componenti. Le prime 2 sono le più importanti e poi ce n'è una terza di carattere statistico. Allora, la prima componente è la ricchezza non dichiarata che deriva da lavoro non dichiarato. Che cosa fa l'Istat in questo caso? Da un lato ritiene credibili i dati che ha in suo possesso attraverso i suoi studi campionari sulla offerta di lavoro da parte delle famiglie. In pratica l'Istat ricostruisce un quadro di quanti sono coloro che sono addetti e che quindi lavorano presso i diversi settori produttivi e presso le diverse regioni o in alcuni casi si va anche a definire contesti territoriali in modo più preciso in Italia. confronta questa informazione, quindi l'offerta di lavoro, con la domanda di lavoro dichiarata invece dalle imprese nelle loro dichiarazioni appunto ai fini contributivi e fiscali. E laddove trova uno scostamento, nel senso che l'offerta di lavoro dichiarata dalle famiglie, quindi il lavoro effettivamente dichiarato dalle famiglie, è superiore a quello che le imprese dichiarano di utilizzare, interpreta questo come lavoro occultato, lavoro non dichiarato dalle imprese. A questo punto, sulla base di un'ipotesi della produttività media che ha un addetto in ogni settore e in ogni regione, diciamo in ogni cluster definito con criteri territoriali e settoriali, appunto sulla base di questa ipotesi di produttività di ogni addetto non dichiarato, che poi è simile all'ipotesi di produttività degli addetti che invece sono dichiarati, si può fare una stima. Ottiene il valore aggiunto non dichiarato. Se una persona in quel cluster, una persona di cui, su cui ho informazioni, quindi il cui lavoro viene dichiarato, mediamente produce tot, quindi c'è un valore aggiunto per addetto di tot, quel valore aggiunto viene attribuito in linea di massima, adesso sto un po' semplificando, ma insomma viene attribuito a tutti coloro che si ritengono non dichiarati. Ci dà una misura di questo tot? Questo tot è la produttività media del settore, che può essere molto elevata nei settori ad alto valore aggiunto, come possono essere per esempio alcuni settori industriali ad alta tecnologia, dove si può arrivare anche a concepire oltre 30, 35, forse anche 40 mila euro di valore aggiunto lordo per dipendente, settori a basso sviluppo tecnologico, a basso valore aggiunto, per esempio mi viene in mente l'agricoltura o alcuni settori del commercio dove si sta su valori molto più bassi. Quindi questo valore che viene dato economico al singolo non coincide con lo stipendio? Questo è importante, tra l'altro, produce. Perché questa componente del lavoro sommerso viene talvolta misinterpretata dicendo, ecco, questa componente che è importante, rilevante, viaggiamo tra il 7, l'8, il 9% del PIL, è il reddito non dichiarato dai doppio lavoristi. Infatti, e invece non è vero, questa è la ricchezza che i cosiddetti doppio lavoristi, chiamiamoli così, diciamo i lavoratori non regolari, producono, che però se fosse stata dichiarata non sarebbe mica finita tutta nel portafoglio dei doppio lavoristi, sarebbe stata spartita tra l'impresa e il lavoratore secondo quelle che sono le normali convenzioni o le normali regole all'interno del settore. Questo è un po' per i lavoratori in nero, diciamo, facendo una categoria, e invece per tutto quello che riguarda ad esempio tutte le abitazioni che vengono date in affitto senza vendite contratto, vendite sotto costo, anche il semplice elettrauto piuttosto che non ti fa la fattura il dentista o quant'altro, quelli invece vengono calcolati? Sì, si tenta anche di calcolare questa è la seconda componente, cosiddetta correzione per fatturato non dichiarato o per costi sovradichiarati, si chiama metodo Franz questo metodo, si basa sul confronto tra la redditività dichiarata dagli addetti dipendenti di ciascun cluster, quindi da coloro che lavorano alle dipendenze del titolare dell'impresa in un determinato cluster, e si confronta la loro redditività con la redditività media dichiarata per ciascun addetto indipendente che opera nello stesso cluster. In pratica si confronta, in questo caso se possiamo dire, lo stipendio, anche se non è esattamente lo stipendio perché è la retribuzione lorda, ma insomma per dare un'idea, dichiarato dal lavoratore dipendente di un determinato settore che opera in un determinato territorio, e lo si confronta con invece quella redditività che residuale, diciamo, che viene dichiarata da coloro che sono i titolari dell'impresa o i familiari o i coadiutori o gli altri soci, insomma. Quando la prima è superiore alla seconda, e cioè quando mediamente in un cluster la redditività dei dipendenti è superiore alla redditività residua dichiarata dai titolari, aggiustando per il numero di ore lavorate che è diverso, allora si ritiene non credibile la dichiarazione della redditività del titolare dell'impresa, e la si incrementa fino a quando il valore medio nel cluster della redditività presunta del titolare e dei suoi collaboratori non è almeno uguale alla redditività media dichiarata dai dipendenti. E queste stime vengono sempre un po' fatte per comparazione, quindi non so se sto per dire un'eresia, però è ampiamente sottostimato così, perché tutti quelli che non sono comunque conosciuti dal fisco, che hanno pochi dipendenti o con cui non è possibile fare questo paragone, non vengono calcolati. Sì, qui c'è un problema, ci sono una serie di problemi. Ovviamente c'è questo problema che diceva lei, cioè noi abbiamo una struttura produttiva per la quale questa operazione di clusterizzazione, diciamo di comparazione, come ha detto giustamente, è particolarmente complessa, quindi è ovvio che la stima può essere viziata. Dire se è viziata in un senso o nell'altro, cioè se è sotto o sovrastimata, questo è difficile. Diciamo che se stiamo all'ipotesi di fondo, a molti sembra un'ipotesi particolarmente prudente. È importante specificare che stiamo ragionando in media, perché sulla singola impresa è ben possibile che la singola impresa in un singolo anno consegua una perdita e invece i suoi dipendenti conseguono uno stipendio. Questo è chiaramente possibile nella fisiologia, come dire, dell'attività imprenditoriale soggetta a rischio. Quello che non viene ritenuto credibile è che ciò mediamente accada per cluster dove io aggrego diverse situazioni, perché questo vorrebbe dire sostanzialmente che l'attività viene mantenuta essendo strutturalmente in perdita, non casualmente in perdita per una singola impresa per un singolo anno, ma strutturalmente in perdita. Allora a questo punto sorge la famosa domanda: ma perché mantieni l'attività imprenditoriale se non ne trai nulla? C'è la terza componente, che è la correzione statistica, che vale molto meno delle due precedenti. Le prime due arrivano alla cosiddetta ipotesi minima di valore sommerso dell'Istat, intorno al 16% del prodotto interno lordo. Aggiungendo la terza si arriva a quel famoso 17,5% che viene spesso citato, 17,5% del PIL di ricchezza occulta. Ma in questi anni in cui le cose vanno molto male, però noi continuiamo a avere evasione fiscale invece? Sì, distinguerei due aspetti. Allora, un primo è un problema metodologico. È vero che questo metodo è un metodo che per definizione va in difficoltà nei periodi di congiuntura estrema, diciamo, o in un senso o nell'altro. Quindi evidentemente immagino, non tutti questi aspetti di stima vengono rivelati, ma immagino che l'Istat dovrà tenerne conto per vista la congiuntura particolarmente forte. È ovvio che il problema c'è di meno laddove il mercato del lavoro è meno rigido, no? Perché in questo caso la crisi si riflette anche sulle retribuzioni dei lavoratori, mentre laddove invece il mercato, specialmente per aspetti retributivi, è più rigido, dove vige la contrattazione collettiva, questo è un problema metodologico. Distinguerei però la questione del metodo di misura dell'evasione, quindi del risultato che può venire fuori, dalla persistenza dell'evasione effettivamente in tempi di crisi. E quindi io ho citato due anni, 2002 e 2006, che erano anni ovviamente diversi da quelli che stiamo vivendo adesso. Esiste in letteratura una duplice ipotesi, in realtà non lo sappiamo bene che cosa succede nei periodi di crisi. C'è chi sostiene che in periodi di crisi l'evasione aumenta perché funziona come una sorta di ammortizzatore sociale occulto, e c'è chi sostiene, segnatamente l'ufficio studi, diciamo l'agenzia delle entrate, che invece funziona il contrario e che quindi nei periodi di recessione l'evasione tende a ridursi. Su questo non abbiamo in realtà delle indicazioni conclusive, anche perché il problema è che con queste tecniche noi riusciamo più o meno a ricostruire l'evasione a livello aggregato e poi a suddividerla nei singoli settori e nelle singole regioni, pur non conoscendo mai il livello di evasione del singolo contribuente, ma quello medio del settore della regione. Diciamo, conosciamo questi dati, ma siamo ancora molto indietro. Va bene, grazie Santoro. Buonasera, buon lavoro. Buonasera a voi, grazie, arrivederci. Quindi siamo diventati anche noi un programma di evasione, insomma. Esatto, totale, molto difficile. Molto complicato. Molto complicato. Beh, però la domanda era così. E continuate a mandarci delle vostre domande via mail mebius@radio24.it. Oppure via Facebook Mebius Scienza. Oppure c'è Mebius_ online ed è Twitter. Il traffico adesso, torniamo fra pochissimo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto torna con noi in studio e noi ne siamo molto felici. Sì, molto felici e onorate, perché è un professore di neuroscienze, un importante studioso italiano del CIMEC, che è il Centro Mente Cervello dell'Università di Trento, e diciamo che ha non vinto, però ha ricevuto un prestigioso finanziamento dalla comunità europea, in particolar modo dal Consiglio Europeo della Ricerca, e ha ricevuto insomma 2,5 milioni di euro per studiare le basi della cognizione sociale. Direi che ci deve un po' raccontare come utilizzerà questo fondo e qual è il progetto. Buonasera Giorgio Valortigara. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Senta, le posso chiedere, ma 2,5 milioni sulle neuroscienze sono una cifra già di per sé piuttosto consistente, no? No, non è consueto. In effetti questi advance grant sono concessi con il contagocce, credo non siamo moltissimi in Italia ad averlo ottenuto, e buono, mi fa un enorme piacere. Prestigiosissimo, ecco. E come li spenderà, professore? Ecco. Principalmente per offrire uno stipendio e possibilità di lavorare a giovani ricercatori nel mio laboratorio. Buono, buono. Questo, e poi in parte per gli usi consueti, in parte per l'apparecchiatura, in parte per quelli che vengono chiamati consumabili, e cioè tutte le cose che servono per condurre la ricerca. Quanti ricercatori lavoreranno con lei a questo progetto? Prevediamo, oltre a quelli che già lavorano con me, che sono circa 4 o 5, di riuscire ad assumere almeno 7-8 ricercatori nei prossimi 5 anni. Okay. Per i prossimi. E l'obiettivo qual è? Ecco. Dunque, qui l'idea è quella di cercare di capire quali sono i meccanismi più primitivi della costruzione della mente sociale, che possono essere illustrati con un semplice esempio che sto usando da un po' di tempo. E cioè, ci sono dei giocattolini che i bambini acquistano in bustine nelle edicole, forse li avrete visti, ne ho sottratto uno a mio figlio, che sono delle insetti più o meno disgustosi d'aspetto, non assomigliano zoologicamente molto a degli insetti, e funzionano così, hanno delle gambette molli, elastiche, semplicemente vibrano. Se voi li appoggiate su un tavolo, questi si mettono a camminare, non camminano, si muovono, e quando uno li guarda ha una impressione veramente irresistibile di stare a guardare qualche cosa di vivo, qualcosa di animato. E allora il problema che mi interessa è capire che cos'è che fa sì che noi vediamo qualche cosa come animato oppure come non animato, cioè come inerte, perché questo è in un certo senso il punto di partenza su cui poi vengono costruiti tutti gli aspetti più complicati della mente sociale, le intenzioni, gli scopi, il fatto che gli organismi siano creature che si dedicano ad obiettivi, così via. E quindi noi siamo interessati a capire che tipo di segnali i cervelli utilizzano per decidere che una cosa è animata, e se ci sono dei segnali che, come dire, madre natura, la selezione naturale ha già incorporato nei nostri cervelli per effettuare questo riconoscimento, e in che modo sono realizzati materialmente nei cervelli. Ecco, ma lei intende dire questo, cioè che se noi vediamo rotolare un sasso che si muove, quindi non lo interpretiamo come animato, mentre invece ci sono delle altre forme che non sono necessariamente appunto un coniglietto, che ci danno la sensazione che sia qualcosa di vivo che si muove? Esattamente. Alcuni di questi meccanismi li abbiamo già studiati e un pochino, come dire, nucleati. Uno, per esempio, ce l'aveva già in mente Aristotele, ed è il fatto che gli oggetti viventi, le cose animate, sono semoventi. Noi avevamo fatto degli esperimenti un anno fa circa, in cui abbiamo mostrato che i giovani pulcini che si imprintano praticamente su qualsiasi cosa vedono alla schiusa, praticamente la chioccia ma anche un oggetto artificiale, preferiscono in realtà, a parità di condizioni, effettuare l'imprinting, cioè sviluppare l'attaccamento sociale nei confronti di un oggetto che sia semovente, cioè che sia caratterizzato da capacità di autopropulsione, piuttosto che un oggetto con le stesse caratteristiche dinamiche, ma il cui movimento è il risultato della spinta da parte di un altro oggetto. Quindi c'è un indizio estremamente primitivo che ci dice che quella cosa lì è animata, il fatto che è capace di muoversi da sola, che dentro ha qualche cosa, un motore che lo spinge. I suoi studi sono sempre stati un po' comparativi, ecco, infatti ha parlato di pulcini, chiocce, lei fa sempre studi che comparino insomma il comportamento, la percezione dei bambini, dei cuccioli d'uomo, ma anche dei pulcini, dei bombi addirittura. Anche in questo caso ha in mente qualcosa del genere? In questo caso qua il progetto è specificamente dedicato all'idea di un confronto e dello sviluppo in parallelo di un animale modello per l'indagine dei primitivi della cognizione sociale, e l'animale modello è per l'appunto il piccolo di pulcino domestico e dei piccoli della nostra specie, perché noi pensiamo che nell'animale modello abbiamo la possibilità di venire fuori con grande facilità, perché possiamo controllare le condizioni di esperienza pregressa dell'animale, quali sono i meccanismi implicati, possiamo sperare anche di capire qualche cosa di come sono rappresentati nel cervello, e la nostra idea è che questi meccanismi funzionino in generale per i vertebrati e che quindi funzionino anche per i piccoli della nostra specie. Anche in questo caso abbiamo già qualche prova preliminare e anche la speranza, diciamo così, che quello che facciamo possa essere utile domani per gli aspetti, diciamo così, clinici. Cioè, noi sappiamo che molti dei disturbi tipici nello sviluppo neurologico infantile, per quello che riguarda il comportamento sociale, consistono proprio nel fatto che alcuni individui mancano probabilmente dei meccanismi di base per il riconoscimento sociale. Le faccio un esempio: le ricerche che abbiamo condotto fin qui nel nostro laboratorio e che sono state condotte anche da altri colleghi altrove hanno mostrato che i pulcini appena nati, senza esperienza alcuna del mondo, mostrano una preferenza per il movimento biologico, cioè per i pattern di movimento che sono caratteristici dei vertebrati. Questa preferenza si manifesta anche nei bimbi neonati della nostra specie di circa 60-70 ore di vita. E quello che un collega americano ha mostrato recentemente è che i bambini autistici, studiati questi a 2 anni d'età, mostrano invece una insensibilità al movimento biologico, cioè guardano gli stimoli, guardano oggetti in movimento, prescindendo, diciamo così, da quei segnali tipici di animità, come li chiamo io, che invece sono caratteristici dello sviluppo dei bambini normali. Grazie Valor Di Cara e auguri per la ricerca. In bocca al lupo, certo, per la ricerca che durerà quanto? 5 anni. Oh, bene. Buone. Bene. Arrivederci, grazie a voi. La soluzione del quiz, eccola qua, vi ricordate qual era? Come si riesce a capire quando come specie abbiamo incominciato a indossare dei vestiti? C'erano 3 possibili fattori: il colore della pelle, i pori, no, nessuno dei due, sono i pidocchi. Sono i pidocchi che ci possono dare una possibile risposta. I pidocchi umani si dividono in 2 subspecie, la prima è quella del pidocchio dei capelli, che deposita le sue uova sul cuoio capelluto e si nutre esclusivamente delle cellule di quest'ultimo. La seconda invece si nutre di cellule epiteliali in genere, ma attacca le uova agli abiti. La subspecie degli abiti si è separata geneticamente da quella del cuoio capelluto e l'analisi del DNA di questa specie porta a dire che la separazione è avvenuta 10.000 anni fa. Questa era la risposta. Tutto, abbiamo detto tutto e qualcos'altro? Sì. No, direi di no, cioè qua. Ne avrei, ma insomma ci risentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, qui fra 7 giorni. Ciao! Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.